Bene, allora ne approfitto un attimo della vostra pazienza e della pazienza dei nostri ospiti per fare un po' uno spot della biblioteca. Come vedete siamo tornati attivi, siamo nella cornice dei nostri scaffali, nelle nostre sale, anche il centro Trevi ha ripreso un'attività ed è per quello che spesso e volentieri, anzi quasi sempre, stiamo organizzando delle iniziative in questo ambito, in questo ambiente, perché la coda lunga delle mostre che si erano fermate si sta piano piano esaurendo, però ancora gli spazi sono occupati. Allora abbiamo detto ritorniamo qua tra i nostri scaffali e così finalmente rioccupiamo degli spazi, torniamo a contatto anche con i libri dopo tanto digitale, perché questo è stato, no? E forse ci ha aiutato anche quello. Buonasera. Ecco, stiamo riallacciando e riannodando i nostri fili. Io vi ringrazio di essere qui con noi, ringrazio tantissimo la professoressa Gribaudi che ha affrontato un bel viaggio. Ecco, la aspettavamo già in gennaio, ma è meglio così, insomma, che sia arrivata in una stagione un po' più mite. Ringrazio Andrea Di Michele che da anni prima lavorava con noi e dopo ha fatto carriera, adesso ci vuole bene e torna, ecco, come relatore, come moderatore, sempre con grandi temi, e è merito suo se la professoressa Gribaudi questa sera è qui con noi e lo ringrazio. Il tema è un tema molto interessante, il ricordo, la memoria, la storia, la storiografia ufficiale, insomma, come muoversi in questo ambito, una biblioteca come la nostra che vive un po' anche di memorialistica, di storia, ecco, a volte è difficile sapere orientarsi in certe situazioni dove il ricordo effettivamente è un ricordo forse edulcorato, forse mitigato, non lo sappiamo, però certo che anche tanti ricordi e tante memorie che ci sono state consegnate hanno favorito poi una visione nuova, anche un confrontarsi diverso nei confronti di una storia come la nostra, dell'Alto Adige, che è difficile. Ecco, è una storia che può avere più angolature, più visioni rispetto ad altre. E quindi siamo qui ad ascoltarla, la ringraziamo, abbiamo una solita bibliografia preparata anche per affrontare altri temi. Ricordo che facciamo degli incontri con un gruppo di lettura il mercoledì pomeriggio dalle 17 alle 18.30 o di narrativa locale o di saggistica legata all'agenda 2030 e poi le solite cartoline con le prossime iniziative che potete prendere. Grazie. Grazie a voi, grazie professoressa e grazie al pubblico che ci segue. Grazie. Leggiamo e ascoltiamo. Grazie. Vabbè, allora io intanto ringrazio anch'io la professoressa Gribaudi per essere venuta qui. Ce l'abbiamo fatta dopo un paio di tentativi andati a vuoto causa Covid. Il libro, tra l'altro, appunto, ci diceva poco fa che il libro e di persona è riuscita ben poco a presentarlo e causa codice ovviamente, questo è un peccato, però speriamo che questo sia l'inizio di una serie di presentazioni in persona, ecco, in presenza. Allora io prima di tutto farò una breve presentazione di Gabriella Gribaudi e poi abbiamo deciso di fare un po' un dialogo, diciamo così, no? Ecco, quindi più che introdurre il libro e poi lasciare all'autrice di spiegarci un po' il contenuto, faremo un pochino, un po' domanda risposta, un po' un dialogo e poi un dialogo speriamo anche con voi ovviamente. E, ecco, Gabriella Gribaudi è professore onorario di storia contemporanea presso l'Università Federico II di Napoli, dove ha insegnato a lungo. E se non sbaglio torinese di nascita ma napoletana di adozione, da molti decenni vive e lavora a Napoli. Tra le tante cose che ha fatto io ne cito una nel suo ruolo di presidente dell'AISO, cioè Associazione Italiana di Storia Orale, per diversi anni, e la cito perché è un tema, diciamo così, un po' un filo rosso, una presenza centrale all'interno di questo libro, sono proprio le fonti orali, l'uso delle fonti orali, la ricchezza di questa fonte e la particolarità e di questa fonte. Ha lavorato e lavora a ricerche nel campo della storia sociale del Mezzogiorno, relazione tra storia e scienze sociali, la memoria e la storia. Ha condotto studi approfonditi sul tema della Seconda Guerra Mondiale e delle violenze ai civili, che in parte ovviamente rientrano in questo ultimo volume. Tra i suoi volumi cito Guerra Totale, tra bombe alleate e violenze naziste, Napoli e il fronte meridionale 1940-1944, e Combattenti, sbandati, prigionieri, esperienze e memorie di reduci della Seconda Guerra Mondiale. Ha lavorato anche in questo libro sul tema della memoria e del trauma, sulla memoria e la guerra, la memoria e le catastrofi. Ha svolto, tra le altre cose, una ricerca sulle memorie del terremoto del 1980 in Campania, in Irpinia, con una comparazione con altre catastrofe naturali, ma ha lavorato anche sul tema della criminalità organizzata. Quindi una serie, diciamo, di temi, di tematiche, di momenti storici che in parte ritroviamo in questo volume. Ecco, questo volume, appunto, è un volume dedicato al tema della memoria, delle memorie, al tema della guerra e dei traumi in generale, diciamo così, nel senso che forse una parte che può apparire insolita, tra virgolette, è questo accostamento tra la memoria legata agli eventi bellici, in particolare agli eventi legati alla Seconda Guerra Mondiale, e la memoria, il trauma e l'elaborazione di questo trauma di eventi legati a catastrofi naturali, tra virgolette. Poi magari parleremo anche di queste virgolette che si devono apporre al termine naturale. Ecco, questo è forse anche uno dei temi forse più originali, ecco, un accostamento sicuramente originale. Quanta similitudine c'è tra una elaborazione del trauma e l'altra? E, ad esempio, un tema molto forte è questo accostamento dei bombardamenti durante la guerra, no? E quindi il trauma del bombardamento, di una distruzione così improvvisa dove non vedi chi ti ha colpito, no? Una distruzione e una morte che giunge in un modo assolutamente inaspettato, molto simile per certi aspetti al trauma che si vive appunto nel momento di un terremoto, ad esempio, quindi di una catastrofe naturale. Ecco, questo libro in realtà contiene molti spunti su cui discutere, su cui riflettere. C'è una parte importante, iniziale, che ci rimanda un po' a temi più di natura metodologica, diciamo così, ai problemi più di carattere generale su cosa significa lavorare con la memoria, cosa significa che rapporto c'è tra la memoria individuale e le memorie, che poi si possono definire in vari modi, memorie pubbliche, memorie sociali, eccetera, e che problemi pongono, che problemi pone un uso di una fonte particolare come quella orale, una fonte appunto del tutto speciale, perché come dire, è una fonte che si crea nel momento in cui lo storico, la storica colloquia, intervista il testimone, no? È una fonte rispetto alle altre che ha questa particolarità straordinaria. Senza questa intervista, senza questo rapporto bilaterale tra l'intervistato e l'intervistatore, questa fonte semplicemente non esisterebbe, no? E quindi è una, a differenza di tutte le altre fonti, che sia scritte, che materiali, eccetera, eccetera, ha questa particolarità straordinaria. E affronta poi in questa parte introduttiva anche la questione appunto delle giornate memoriali, ad esempio, delle memorie pubbliche che diventano memorie istituzionalizzate, no? Che problemi pongono questo ricordo istituzionalizzato, no? Quasi questo obbligo del ricordo. E le parti successive invece poi si dedicano, con parti anche molto, diciamo, è tutto molto, molto leggibile questo libro, ma anche ci sono delle parti in cui si riportano anche testimonianze molto, molto forti, molto ricche, legate a narrazioni private e narrazioni pubbliche, legate a momenti drammatici come quello della Shoah, come quello della Seconda Guerra Mondiale, come quello delle occupazioni durante e alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i bombardamenti, gli stupri di massa, il ruolo della resistenza e la memoria della resistenza, una parte molto incentrata sulle memorie divise e le memorie legate al nostro paese, le memorie in Italia, in particolare sul tema della resistenza, della guerra, delle stragi nazifasciste, e poi questa parte finale dedicata alla memoria delle catastrofi naturali, appunto tra virgolette. Allora, io vado subito al dunque, diciamo così, e faccio un po' una domanda, una considerazione legata forse più proprio a questa parte iniziale, no? E cioè il tema della memoria, delle memorie, anche nel dibattito pubblico si parla forse un po' schematicamente, diciamo così, no? Dell'esistenza di una memoria come se fosse un qualche cosa di reale, di concreto, no? Qualcosa di definibile, isolabile, valido una volta per tutte. E in realtà noi, sia in quanto individui che in quanto, diciamo, società, ci confrontiamo con una memoria molto più complessa, molto stratificata, molto, diciamo, mobile, in evoluzione, mai ferma. Quindi forse converrebbe partire facendo un po', diciamo, di ordine, tra virgolette, spiegando un po' che cosa si può intendere con il concetto di memoria al singolare, di memorie al plurale. E nel libro si parla, riprendendo un altro autore, si parla ad esempio di bricolage della memoria. Sì. Sì, appunto, siamo abituati nella discussione in genere pubblica, ma quando leggiamo i giornali, i quotidiani, o sentiamo, oppure anche in alcuni volumi scientifici, sentiamo parlare di memoria, e spesso anche si dice memoria collettiva, no? E parlando di memoria collettiva, si parla di appunto una memoria in qualche modo omogenea, insomma un qualche reificata, ecco, diciamo così, un qualche cosa che c'è. Allora, questo è ovviamente è un modo di utilizzare il termine di memoria, di parlare di memoria, estremamente superficiale, estremamente confuso, per cui tutto in qualche modo, e poi fra l'altro in questo modo tutto diventa memoria, no? Perché in qualche modo la storia è anche memoria. Allora, una prima cosa da fare è distinguere fra le varie memorie, appunto, e questo io ho cercato di farlo nel mio libro. Esiste una memoria pubblica che è una memoria costruita. Anche questa ovviamente non è mai costruita per sempre ed è spesso conflittuale, no? Ci sono anche qui diverse memorie pubbliche, ma comunque appunto si tratta di memorie, forse più che di memoria, a volte di narrazioni in cui si ricostruisce, diciamo, la storia di un paese, la storia di una comunità in qualche maniera, e ovviamente c'è lì un influsso molto forte politico, e ovviamente cambiano, queste memorie cambiano nel tempo. E poi esistono invece diversi tipi di diverse memorie. Anche qui io ho cercato, appunto, si parla, appunto nel mio libro cito questa idea del bricolage di memorie, cioè esistono in realtà diverse memorie che si distinguono, diciamo, fra memorie individuali, memorie familiari e memoria collettiva. Ecco, io ad esempio, utilizzando anche qui, cioè rifacendomi anche qui a una discussione che c'è stata a livello internazionale, questo termine di memoria collettiva, che in genere viene utilizzato, no? Spesso si dice memoria collettiva, ecco, io lo uso soltanto nel senso in cui, diciamo, la memoria collettiva, pensando a un altro grande autore che è Halbwachs, no? Che ha parlato appunto di memoria, autore passato, la memoria collettiva secondo me è solo quella che si costruisce interattivamente fra delle persone che hanno vissuto una certa esperienza, che hanno vissuto un avvenimento, no? E quindi poi ricostruiscono questa memoria e la fermano, diciamo, in una serie di immagini, in una serie di di anche di idee, no? Di interpretazioni, ecco. E secondo me solo in quel caso si può parlare di memoria collettiva. E appunto questo lì in alcuni casi potremmo anche parlare di una memoria di comunità, no? Questo pure è stato, diciamo, utilizzato. Appunto io ho fatto anche degli esempi, ad esempio quando noi studiamo una strage, anche lì poi ci sono le memorie divise, ma non so, ad esempio mi è capitato, studiando e utilizzando appunto la storia orale, i bombardamenti a Napoli, ci sono alcuni avvenimenti, alcuni, diciamo, sì, casi in cui si è costruita una sorta di memoria collettiva, nel senso che facendo le interviste a più persone io ho avuto le stesse immagini, ecco, nel caso ad esempio di un grande bombardamento, il primo grande bombardamento tappeto di Napoli del 4 dicembre del 1942, in cui la città è stata bombardata in molte parti, soprattutto però quello che ad esempio viene raccontato da tutti è la storia del bombardamento di un tram, no, che passava, dove la gente raccontano tutti, e si è costruita appunto questa immagine della gente che scappava dal tram senza testa, ecco, questo ovviamente non so se è vero, cioè, però c'è questa costruzione in qualche modo, probabilmente c'è questo un caso, insomma, viene costruito. Quindi secondo me questo, ad esempio, ci sono appunto casi in cui si parla appunto, non so, memoria collettiva di Vichy, memoria collettiva della Repubblica di Salò, no, appunto sono costruzioni diverse. E poi, ecco, ci sono dei casi in cui sì, la costruzione, diciamo, della memoria pubblica in qualche modo incontra anche le esperienze delle persone, no? Ci può essere questo caso, e non so, facciamo il caso della resistenza in Italia. Io che appunto sono vissuta al nord e ho sentito sempre parlare della resistenza, e quando ho fatto le scuole ci davano il libro sulle lettere dei condannati a morte della resistenza, ecco. È diverso da quello che ho vissuto e ho visto nel sud, perché chiaramente le esperienze sono diverse. Allora, se in un paese in cui, anche se poi anche lì è molto più complicato, ma diciamolo un po' rozzamente, effettivamente la resistenza ha rappresentato un qualche cosa di reale, non lì, allora è chiaro che il discorso pubblico può incontrare anche i discorsi privati, può interagire, diciamo, di più. Là ove invece il discorso pubblico che si costruisce, ad esempio il discorso sulla resistenza, è chiaro che è importante, non lo si può negare, è stato importante ricostruirlo, è stato importante nel dopoguerra, perché significava appunto dire che la Repubblica nasceva dalla resistenza e contro il fascismo, eccetera, eccetera. Però è chiaro che è stato anche un discorso che ha amplificato, che ha in qualche modo, in cui si potevano identificare e rivedere solo una parte degli italiani, questo bisogna anche dirlo, no? E quindi quando l'esperienza è, come ho scritto, troppo dissonante dal discorso pubblico, si può creare un conflitto, si può creare un qualche cosa in cui appunto non ci si riconosce. Io fra i miei studi, fra le mie ricerche, ho anche fatto la ricerca sulla zona del Basso Lazio, sulla linea Gustav, dove ci sono state le famose marocchinate, cioè i grandi stupri di massa del corpo di spedizione francese, insomma. E Goumier, maggioranza marocchini, ma c'erano anche dei francesi nel ricordo delle persone. Ecco, una di queste donne intervistata dice: io la liberazione non la festeggio mai, perché liberata a quel modo lì, io non sono stata liberata. Allora lì c'è chiaramente una dissonanza, no? Le interviste che io ho fatto sulla guerra, appunto oggi sarebbero diverse, sono fra i fine anni 90 e inizio 2000, quindi ancora c'erano appunto delle donne che avevano subito questo, e poi negli anni questo è anche un po' probabilmente cambiato. Però ecco, questo era il discorso, la liberazione, no? Quelle erano dei, in quel momento non alleati ma co-belligeranti, insomma, non erano nemici, però hanno fatto quello. Allora lì c'è una memoria fortemente dissonante, no? Ad esempio in quelle zone dove ci sono state anche delle stragi dei tedeschi, cioè lì la popolazione ha vissuto su quella linea, probabilmente simile un po' anche alla gotica, ma insomma su quella linea hanno vissuto l'inverno 43-44 fra grandi bombardamenti dal cielo, perché lì c'è Cassino, no? La zona di Cassino, è stata bombardata tutta la zona, e violenze tedesche. Ma non tutti hanno vissuto, cioè, le violenze tedesche, perché ci sono state le stragi, poi ovviamente c'erano gli ordini di guerra, le evacuazioni, eccetera, eccetera, molto dure. Però non tutti hanno vissuto magari la violenza tedesca. Allora nel ricordo, questo appunto non lo dico solo io, ma un altro studioso che ha studiato quella zona, Tommaso Baris, nel ricordo di alcune, soprattutto quelle che hanno vissuto la violenza, diciamo, del corpo di spedizione francese, i tedeschi erano buoni e invece gli altri erano cattivi. Ma anche lì non tutti, cioè è come dire, ecco il bricolage, non c'è una memoria comune, no? Perché è un po' quello che le persone hanno vissuto che ricordano, ecco, questo è, e questo vale anche ad esempio per altri casi, no? Lì appunto lì si vede, che sarebbe appunto lungo da ricordare, non so, anche ad esempio le quattro giornate di Napoli, no? Famose, molto sottovalutate in genere in Italia, ma sottovalutate anche in città per lungo tempo. Allora, lì ad esempio ci sono memorie proprio a bricolage, nel senso che c'è chi le ha vissute, c'è chi le ha viste, c'è chi ne ha avuto esperienza, c'è chi si è chiuso in casa, non l'ha vista e dice tutto una costruzione. Sì, e poi c'è questa costruzione del dopoguerra, diciamo, io appunto, c'è sia una costruzione, diciamo, nazionale, per cui siccome le quattro giornate avvengono subito, avvengono dal 27 settembre al 1 ottobre, e quindi c'è anche il CLN, una manifestazione anche popolare, no? Cioè allora, siccome non c'era un'organizzazione politica, ma voglio dire, siccome non ci poteva essere un'organizzazione politica, bene meriti i napoletani che se la sono vista da soli, quindi questo è già una prima cosa. Ma una seconda cosa, quindi questo in qualche modo non è entrata nella vulgata nazionale, diciamo, della resistenza, quella buona, quella vera. Questo da un lato, se noi leggiamo i libri, non so, appunto io l'ho citato nel mio libro di Bocca sulla storia della resistenza, adesso il titolo esatto non me lo ricordo, ma insomma è così, lui dice a Napoli 60 morti, per esempio. Io, perché oltre a lavorare con la storia orale, lavoro sempre anche con fonti, diciamo, documentarie, e ho ricostruito attraverso gli atti di morte del comune di Napoli in quel periodo, dove noi abbiamo proprio ucciso dai tedeschi, cioè si ritrovate, e con tutti i dati, poi anche quelli di ospedali, eccetera, adesso la cifra 761 morti, quindi questo vi dà l'idea della violenza e della insurrezione. Questo è una, però c'è un altro discorso, questo coinvolge poi, perché non è sempre la cattiva memoria pubblica nazionale, ma c'è un problema appunto storico che nel dopoguerra, il periodo laurino, poi il prevalere soprattutto anche di un'elite a volte post-fascista, no? Nel sud, e poi anche democristiana, eccetera, la stessa memoria, diciamo, locale, pubblica ovviamente anche lì, ha teso a sminuire la portata delle quattro giornate, dicendo una cosa di scugnizzi, che è rimasta anche molto nella memoria nazionale, no? Sempre gli scugnizzi e le quattro giornate. Allora, il monumento alle quattro giornate a Napoli è il monumento allo scugnizzi, che sta sul lungomare, diciamo, vicino a dove c'è l'ambasciata americana. Ecco, e questo l'ha fatto la DC. Eccola, ecco questo, e quindi questo è un modo per sminuire, ovviamente, e gli scugnizzi sono morti dei bambini. ma ovviamente si tratta di una storia dell'epoca, no? I bambini erano in mezzo alla strada, i bambini di 11, 12, 13 anni, sì, hanno combattuto con gli altri, ma se si guardano i morti si vede poi che se erano adulti, tanti, di tutti i tipi, soldati sbandati e vari, varie persone. Quindi questo è, e lì c'è proprio un mix di memorie, un bricolage che è difficile poi in qualche modo mettere insieme. Un'altra cosa che è importante, è, parlando di bricolage, è ovviamente, qui appunto Andrea ha detto bene, la memoria poi è processuale, no? In qualche modo cambia, quindi cambiano anche le memorie individuali, su questo bisognerebbe pure fare un lungo discorso ovviamente. E, appunto, questo autore dice in questo bricolage qualche volta ci sono delle memorie che sono fa la metafora del microfono, diciamo, ci sono delle memorie che sono vicino al microfono, invece ci sono delle memorie che sono molto lontane dal microfono e quindi nessuno le sta a sentire, non hanno voce, ecco, in qualche modo. Uh-huh. Ecco, e questo processo, diciamo, al microfono possono arrivare altri, possono cambiare, uh-huh, possono essere allontanati altri. Questo è, diciamo, un'altra cosa importante da ricordare. E poi appunto c'è un tramite molto forte della memoria, quello che passa attraverso le generazioni, nelle famiglie ovviamente, anche qui poi ci sono dei cambiamenti. Noi oggi assistiamo a questa terribile guerra in Ucraina e lì ad esempio diciamo c'è una memoria sovietica e poi dopo di questa che vediamo di Putin eccetera, ha nascosto, no? Ha costruito un discorso pubblico che ha nascosto completamente tutta una serie di eventi, di fatti, ecco, e che è potuto passare solo attraverso le famiglie. Anzi, in quel caso, l'avevo già letto, ma proprio perché è un librone così, ho approfittato di questo viaggio per portarlo appresso e leggere Vita e Destino di Grossman. Ecco che lì, questo libro che consiglio moltissimo per capire anche quel che sta succedendo oggi, ecco lì si vede anche che, voi lo sappiamo anche dai libri eccetera, lì c'è stato un problema perché ad esempio chi finiva nei gulag doveva essere dimenticato, mm-hmm, perché se no tutta la famiglia ne risentiva, no? C'era l'impedimento della memoria, no? e quindi in quei casi lì ovviamente la difficoltà del passaggio attraverso le generazioni è molto più forte, quindi anche di questo ovviamente si dovrà tenere conto, no? Poi ci sono tanti altri temi, sì, che forse su questo che... No, ma infatti su questo, legandomi un po' a quello che dicevi sul microfono, diciamo così, essere più o meno vicini al microfono e anche semplicemente non parlare della propria esperienza, del proprio trauma, sì, no? E ci sono diversi esempi nel libro, hai citato quello degli stupri di massa, le donne che hanno subito questi stupri di massa per molti decenni non hanno parlato, quindi quella è stata una memoria, cioè, neanche lontana dal microfono, ma che semplicemente non è mai espressa soltanto a partire da un certo momento. Molto simili le vicende, eventi simili avvengono a Berlino, nella, sì, zona occupata dall'Armata Rossa, oppure cose molto simili di stragi, ad esempio in Polonia, no? Sempre da parte dei liberatori, no? Tra virgolette. Allora, la questione è, come mai a un certo momento queste memorie congelate, diciamo così, si scongelano e iniziano a diventare, a parlare, queste voci iniziano a farsi sentire? Certo. Beh, nel caso, diciamo, della Polonia, nel caso dei paesi dell'Est, è chiaro che è la caduta, diciamo, del comunismo, no? Infatti c'è un libro che si chiama A Est, la memoria ritrovata, no? Di Le Goff, che era uno storico, diciamo, moderno, neoeuropeo, però ha curato questo libro che uscì poco dopo, mi ricordo. E quindi lì c'è, appunto, ovviamente questo, la memoria ritrovata. Anche lì, ad esempio, c'è il caso interessante di Katyn, ecco, che in questi giorni si è di nuovo citato, mi pare, da qualche parte. Il caso Indicatin è interessante perché, come si è detto in questi giorni, nel 1939 la Polonia è stata occupata a ovest dai nazisti e a est dai sovietici, no? E bisogna dire, nel 1939 hanno fatto entrambi grandissime violenze, anche i sovietici hanno fatto moltissime violenze, e fra l'altro hanno anche deportato delle persone, dei gruppi di popolazione anche allora, fra cui anche ebrei. Quello che facevano i sovietici, ed è quello di cui si parla anche oggi, è di reprimere, o addirittura in questo caso uccidere, reprimere la classe dirigente locale, no? Perché in questo modo loro avrebbero potuto imporre, diciamo, la sua occupazione, la loro occupazione, il loro regime, senza problemi, perché avrebbero, come dire, costruito loro una classe dirigente, no? Quindi loro nella foresta di Katyn hanno ucciso, adesso non mi ricordo più il numero esatto, ma insomma migliaia, no? Migliaia di prigionieri polacchi, in particolare, soprattutto tutti gli ufficiali, no? Perché questo era, appunto, era questo metodo. Nel dopoguerra, cioè nel famoso processo di Norimberga, e già da subito i sovietici accusarono i tedeschi di avere fatto questo, no? E ci fu fra l'altro un anamatopatologo, napoletano addirittura, fu fra quelli che analizzarono le ossa, i corpi di questi, e dissero che non erano i tedeschi. Ma Stalin, eccoli, poi c'è il dopoguerra drammatico, no? In cui Stalin era il vincitore della guerra insieme agli altri, e diciamo impose il silenzio, quindi non, i tedeschi non furono accusati a Norimberga di questo, però si impose il silenzio. In Polonia si sapeva benissimo, ecco qui la memoria, diciamo, nascosta, no? che rimane e che poi ritorna anche come odio, no? come vendetta nel dopoguerra, scusate, nel postcomunismo. La verità su Katyn si è potuta sapere soltanto con la caduta del comunismo, e non solo si è potuta sapere perché c'è stato un periodo breve in cui Gorbaciov e Yeltsin, in cui la memoria nella post-Unione Sovietica ha potuto aprirsi, poi di nuovo si è rinchiusa, perché di nuovo mi pare di aver letto che Putin ha di nuovo, diciamo, chiuso questi, ecco. Quindi nell'est questo è successo, è successo poi, appunto, per ricordare appunto questo, in questi luoghi, appunto, poi che cosa è successo, perché questo ci riporta all'oggi. C'è stata un'occupazione nazista durissima, ricordiamo che appunto l'arrivo delle armate naziste a volte è stato anche, diciamo, accettato dalle popolazioni contro il comunismo, perché il comunismo aveva fatto, pensiamo all'Ucraina con il famoso Holodomor, la grande carestia imposta da Stalin, aveva fatto grandi violenze, quindi sembrava. Poi invece i nazisti si sono rivelati per quel che erano, ma siccome nel dopoguerra poi, cioè siccome pensiamo alla Polonia ad esempio, la Polonia poi viene liberata dai sovietici e viene imposto il regime sovietico. Allora che cosa capita poi nella memoria? Che i sovietici sono peggio dei nazisti, no? Nella memoria. E si costruisce, quindi, diciamo, questa memoria, diciamo, complessa, no? Poi poi appunto quando finisce il comunismo. Questo il caso degli stupri, altro caso diverso, ma il caso degli stupri, sì, certo. Intanto che sia diventato un crimine, diciamo, di guerra, mm-hmm. soltanto dal 96, mi pare, se non sbaglio la data, l'ho scritta, no? E quando appunto è stato dal Tribunale Internazionale dell'AIA, finalmente dopo i grandi stupri di massa in Bosnia, mm-hmm. Finalmente è stato definito un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità. Mm-hmm. Ma prima, ecco, ci raccontano appunto le donne stuprate del Basso Lazio, non era considerato un fatto grave contro la persona, e una di queste donne ci ha proprio raccontato che diciamo era considerata come un altro avesse avuto, che ne so, una ferita qualsiasi per un motivi, un bombardamento eccetera, e loro hanno avuto diciamo una avevano una sorta di pensione di fino a che se poi venivano, mettiamo che avessero avuto una malattia, no? Malattia presa appunto per lo stupro, quando guarivano gli veniva levata, no? Perché è appunto come uno che ha avuto una ferita qualsiasi. Quindi loro non sono state riconosciute, c'è stata una battaglia dell'UDI anche allora al Parlamento, non sono state riconosciute. E poi lì c'è un problema, noi pensiamo che cos'era un piccolo paese del Basso Lazio, della sciosceria, cioè, gli stupri sono venuti sia nel quello che è oggi la provincia di Latina, sia fino a Cassino. Che cosa voleva dire, diciamo, loro perdere la verginità in quel modo, ecco. E loro dicono, ci consideravano malate, ci dicevano malate, e hanno avuto grandi difficoltà poi, perché erano state, come dire, sì, diciamo, ecco, e allora per loro e per le loro famiglie e per i paesi interi è stato meglio tacere, no? Fare, diciamo, silenzio su questo. Io ho citato poi, ovviamente io non ho fatto ricerche nell'est né in Germania, ma ho citato dei lavori di studiose, appunto, austriache, tedesche, ungheresi, e anche loro parlano di questo, cioè dicono che anche lì c'è stato poi un silenzio molto forte dopo la guerra. Poi lì c'è una differenza che ho visto, nel caso dell'Austria e della Germania si sono utilizzate addirittura le leggi eugenetiche del periodo nazista per permettere aborti, nel caso italiano no. Però la cosa appunto che mi ha molto colpita è che non se ne parla assolutamente, sicuramente ci saranno stati, sicuramente saranno nati i bambini, ma nei paesi c'è un silenzio su questo totale, non ho proprio trovato niente, e quindi questo vi dice anche cosa è stato. Negli ultimi anni, dopo queste storie, dopo Srebrenica e dopo, se ne riparla nei paesi, sono addirittura uscite delle targhe nei paesi che ricordano appunto le violenze contro le donne, e quindi è un po' cambiato, ma anche perché c'è stato questo riconoscimento pubblico, e poi la maggior parte purtroppo delle donne, no, queste non ci sono più. Però un pochino mi sembra anche legata a questa questione nel libro, cioè a un certo punto si sente anche un po' legittimate, si sono sentite legittimate a parlarne, nel momento in cui molta della memoria, diciamo, pubblica ha iniziato ad incentrarsi sulla memoria della vittima. Sì, no? Mi hai levato le parole, giustissimo. Cioè quando questo dolore privato, che fino allora era stato privato, iniziava ad avere un riconoscimento pubblico. E questa questione qui, secondo me, è molto importante, no? Cioè la memoria del trauma, che diventa un momento centrale della commemorazione pubblica. Sì. Se noi pensiamo anche all'esplosione memoriale che c'è stata negli ultimi decenni, no? Noi abbiamo delle giornate memoriali che sono tutte legate al lutto, sostanzialmente, no? Al dolore. Abbiamo la Shoah, abbiamo le foibe, e poi abbiamo le vittime del terrorismo, le vittime della mafia. Cioè si è creata, ci sarebbe da domandarsi come mai, no? A partire da un certo momento, se noi pensiamo al calendario pubblico precedente e ancora in parte vivo, no? Abbiamo il 25 aprile che è un momento di vittoria, no? Sì. Abbiamo il 1° maggio che è comunque una rivendicazione dei diritti dei lavoratori, e a partire da un certo momento la commemorazione pubblica diventa dolorosa. Sì. Come mai? E poi è una questione italiana, perché ad esempio c'è uno studioso come De Luna, no? Che ha scritto, sì, questo libro, come no? La Repubblica del Dolore, Repubblica che sostiene che è legato al fatto che sia caduta la Prima Repubblica e la Seconda Repubblica aveva bisogno, diciamo così, di un nuovo calendario civile, ecco, in cui far riconoscere i cittadini, le cittadine, e questo nuovo calendario civile lo si sia tutto incentrato sul dolore. In realtà però mi sembra una dinamica questa che ritroviamo perlomeno a livello europeo, non soltanto italiano. Sì, secondo me sì, anche a livello europeo. Secondo me non è solo il fatto, sicuramente Giovanni De Luna ha ragione, ma non è solo quel fatto. Secondo me diciamo è un processo che viene da più lontano, che poi sfocia, ecco, qualcuno lo fa, lo lega anche alla fine della Guerra Fredda. Sì. E quindi con la fine della Guerra Fredda si sgelano delle memorie. E che tipo di memorie si sgela? Si sgelano proprio quelle legate alle memorie contraddittorie e alle memorie delle popolazioni civili. Ecco, questo convegno a cui andai già un po' di anni fa, io ho citato nel mio libro, in cui erano, diciamo, la maggior parte erano proprio storici della Francia, della Germania e poi anche dei paesi dell'est europeo, e il titolo era proprio Experience and Memory, esperienza e memoria, e l'idea era proprio che la memoria della guerra durante il periodo della Guerra Fredda si era, diciamo, bloccata su queste memorie nazionali, che fra l'altro, appunto, non so, pensiamo alla Francia, che poi fra l'altro è riuscita a definirsi vincitrice dopo la guerra, no? Aveva nascosto Vichy, aveva nascosto le deportazioni a cui avevano partecipato anche i francesi e gli ebrei, eccetera. Insomma, e quindi quello che si diceva, appunto, in questo convegno, quindi soprattutto i colleghi, appunto, di altri paesi, e, diciamo, la fine della Guerra Fredda rende possibile far emergere tutte queste altre memorie, e nell'est ovviamente ancora di più perché erano state più congelate, però anche negli altri paesi, e lì c'è, diciamo, comincia poi appunto altri, l'idea, cioè l'esperienza delle popolazioni civili, che in effetti è un'esperienza, come dire, che insomma, caratterizza la Seconda Guerra Mondiale, no? E lo sapevamo, lo si sapeva anche prima, e diciamo era una memoria che c'era già in qualche modo, che però trova, come dire, la sua esplosione, espressione proprio in quegli anni, e in quegli anni anche c'è tutta una, insomma, c'è tutto un filone di storici che non so, ci si buttano tutti quanti noi, cioè, si sono hanno cominciato a lavorare molto, appunto, sull'esperienza delle popolazioni civili, e le popolazioni civili, quindi vittime, anche lì poi ovviamente non è giusto, perché non sono state solo vittime, e lì poi c'è il problema, non solo il microfono, ma il problema poi che appunto ci sono stati collaboratori, ci sono stati i resistenti, ci sono stati quelli che hanno cercato di campare, di sopravvivere, sono tutte storie diverse, è chiaro, quindi poi come dire, l'uso poi della vittimizzazione è un uso poi opportunista in qualche modo, può essere di nuovo un uso politico, no? E può essere anche un motivo di conflitto. Pensiamo appunto alla guerra nella ex Jugoslavia, no? Cioè lì vittima io e non tu, invece, e quindi il conflitto su chi è stato più vittima è poi un, un altro conflitto, certo. E invece c'è il problema poi di riconoscere le varie esperienze e appunto non solo di vittima, appunto. Quindi sia di combattenti che anche poi di collaboratori, eccetera, no? E sempre rimanendo sulla questione della memoria del trauma, no? Appunto a partire da un certo momento nascono anche i cosiddetti trauma studies, no? Oltre ai memory studies, cioè incentrati proprio su questa tematica, e ovviamente il tema della Shoah in questo ha avuto un ruolo assolutamente centrale, no? Tu scrivi anche come i testimoni, i sopravvissuti inizino a parlare piuttosto tardi, no? E sembrerebbe, come dire, che ci sia quasi sia una motivazione personale di necessità di elaborazione di questo trauma, sì, che richiede alcuni decenni, e sia probabilmente anche, come dire, una mancata corrispondenza con ciò che il mondo circostante voleva sentire, sì, no? E quindi un'emarginazione di una memoria che sente di non voler essere ascoltata, no? Quindi probabilmente agiscono entrambi, sì, questi aspetti. La questione è, si discute molto, no, su questo dolore, e cioè su le testimonianze di chi ha vissuto questo dolore, i sopravvissuti, i perseguitati, eccetera, eccetera, e anche sui rischi legati a questo approccio, cioè un approccio che, se incentrato troppo, se non esclusivamente, no, sulla testimonianza dolorosa, rischia da una parte di condurre a un coinvolgimento emotivo, diciamo così, difficile da sostenere, e che conduce a, come dire, ad avere un rapporto con un dolore assoluto, quasi astratto e quasi slegato dal contesto che ha prodotto questo dolore. Certo. E quindi si parla molto di più, il che non è negativo, della vittima, no? Però molto di meno del contesto e anche, diciamo così, dei colpevoli, no? Di chi ha commesso, di come si è giunti. Ecco, eppure queste testimonianze sono anche straordinarie. Ad esempio, giustamente tu dici, nonostante tutte le critiche che si possano fare sulla Shoah, cioè sulla Shoah, su questa memorializzazione, questa istituzionalizzazione della memoria della Shoah, oggi come oggi possiamo dire che la conoscenza su questo dramma è una conoscenza forte, no? Relativamente radicata e diffusa. E ecco, che rischi vedi anche tu questo rischio, sì, un po'? Sì, sì, lo vedo e ne ho anche scritto, sì. Allora, ad esempio, sul caso della Shoah, e quello è abbastanza evidente. Da un lato, sono d'accordo, le testimonianze sono state molto importanti. E questo anche alcuni storici, no? Che hanno fatto appunto storia della Shoah, lo hanno detto, no? Senza le testimonianze non avremmo avuto tantissimi aspetti, diciamo, dell'esperienza, appunto, dei campi. E fra l'altro è interessante vedere come il fatto che abbiamo invece molta meno testimonianze su quelle di cui oggi si parla, e cioè le fosse comuni dei fatti dai nazisti, appunto, in Ucraina, eccetera, perché lì sono morti sul momento quasi tutti. Abbiamo scarsissime testimonianze di quello. Questo già è interessante. Infatti, la memoria della Shoah in Europa è la memoria dei campi, no? Poi noi sappiamo che la metà degli ebrei sono morti invece già uccisi così, man mano che l'operazione Barbarossa andava avanti, no? Noi abbiamo adesso, si è parlato di questa grande uccisione a Kiev, no? 33.000 persone uccise in pochi giorni, portate via e messe davanti una fossa e uccise a Babi Yar. Ecco, quindi diciamo, le testimonianze sono state molto importanti per tanti aspetti. Nello stesso tempo, io questo l'ho visto anche con gli studenti, diciamo, da un certo punto in poi gli studenti erano molto preparati, cioè sapevano della Shoah tutti, mentre ad esempio non sapevano degli altri genocidi del secolo, ecco, su questo qualcuno, gli armeni, ma pochi. Il primo genocidio del secolo è il genocidio della popolazione Herero in Africa, in Namibia, ecco. Poi c'è il Ruanda un po' magari di più perché era più, insomma, i Khmer Rossi, eccetera. Però ecco, questo qual è il problema? E io mi pare l'ho scritto, non so se qui in un altro luogo, è quasi come se questa violenza raccontata dal testimone fosse messa in una bolla storica, no? Quindi è il male assoluto, una pazzia, un male assoluto. E ovviamente allora questo non va bene, perché bisogna contestualizzare questo male, questo il campo, no? Contestualizzare il fatto che si sia arrivati a decidere di uccidere tutto un gruppo, un enorme gruppo etnico. Come si è arrivati? Si è arrivati con i 33, con Hitler, con le leggi razziali, con la notte dei cristalli, cioè si è arrivati con un certo regime, con una costruzione, diciamo, di leggi e ideologia, no? E totalitarismo, cioè allora questo è molto importante. Nel, mi pare 2001, insomma uno dei primi anni in cui ci fu la legge appunto del 27 gennaio, io feci un documentario, questo fra l'altro è in internet, lo potete vedere, sì, il titolo è Dal cancello secondario, e intervistammo tutti diciamo gli ebrei della comunità ebraica napoletana, e io ci tenni, diciamo, nel documentario, è un documentario ovviamente, non pensate di vedere un gran documentario fatto in maniera un po' dilettantesca, ma insomma è funzionato, io l'ho fatto vedere sempre, l'abbiamo fatto nel giorno proprio a cura dell'Università e del Comune di Napoli. Ci ho tenuto a accompagnare tutte queste testimonianze, spezzettà che abbiamo messo, sempre con le leggi fatte dallo Stato italiano, cioè diciamo, i testimoni raccontano, improvvisamente non siamo andati più a scuola, e allora sottotitolo legge. Poi 1940 escono altre leggi, altre cose, gli ebrei, no? E poi gli ebrei, perché a Napoli c'era una grossa comunità che veniva dalla Grecia, cioè dopo il grande incendio che c'era stato in Grecia. E allora alcuni di questi vengono, siccome la legge, le leggi razziali, diciamo, fanno ridiventare apolidi quelli che avevano preso la cittadinanza, che avevano non avevano preso la cittadinanza dopo il 1918, mi pare. Allora questi diventano loro viene levata la cittadinanza, ridiventano apolidi, in alcuni casi sono costretti a tornare in Grecia, perché la Grecia nel frattempo è diventata nemica, e lì ovviamente testimonianza di quello che ha avuto i cuginetti che sono tornati in Grecia, i zii, e da lì sono stati presi e sono finiti ad Auschwitz. Allora però la cosa importante è dire quelli ci sono finiti perché c'è stata una legge del fascismo che li ha fatti tornare là, no? Allora questo mi è sembrato importante, cioè legare, e questo era anche importante perché gli italiani pensano che loro non hanno mai fatto niente, far vedere che tutto questo era legato, ecco, era una testimonianza di un vissuto, ma testimoniare che era legato a diciamo a delle decisioni che erano state istituzionali e politiche, no? Ecco. Un altro dei nostri testimoni, lui è anche lui di origine, la sua famiglia era di origine greca, e sono stati, si usava nel sud, perciò che poi alcuni si sono salvati, c'era un internamento nei paesi, si chiamava internamento, e venivano mandati in paesi, e loro sono finiti in un paese delle Marche, che poi è finito sotto la Repubblica di Salò, e il padre è stato preso ed è morto ad Auschwitz, e mentre lui, che era un bambino, con la sorellina e la mamma sono riusciti a scappare, aiutati in quel caso dai partigiani e dal parroco locale. Ecco, anche in questo caso il padre di questo signore finì ad Auschwitz, perché c'erano state le leggi razziali, perché c'erano state le leggi del tempo di guerra, erano stati internati in un paese, poi c'era stata la Repubblica di Salò e lui era finito. Ecco. Quindi questo mi sembra importante, ecco, senza togliere niente al problema del trauma e del ricordo. Ecco. Poi lì c'è anche un altro fatto che, diciamo, ci si perde perché sarebbero tantissime le cose. Da un lato c'è anche un tema che è stato definito di voyeurismo, cioè sì, il trauma, il dolore, la sofferenza paga, lo stiamo vedendo in TV, paga. E questo è un problema, questo vale anche per le catastrofi. E poi c'è però un altro tema che è importante per la questione della memoria, che comunque il trauma è una delle memorie che rimangono più forti, no? Vivide. O lì ci sono due possibilità: o uno si cerca di cancellarlo, di dimenticarlo, una rimozione, chiamiamola in termini psicanalitici, oppure permane fortissima. Ecco, io ho citato spesso questa donna che io stesso ho intervistato, di un paese del Casertano. Il Casertano, appunto, queste poi sono cose che spesso in Italia non si sanno. Il Casertano ha avuto un'occupazione tedesca breve ma intensissima, perché sono finiti sulle linee di fortificazione tedesche, no? E da un lato gli alleati che avanzano e i tedeschi che ovviamente impongono delle leggi estremamente dure. Quindi in questo paese c'è stato, perché è un paese, diciamo, sulla linea del Volturno, e in questo paese c'è stata una strage proprio tipica rappresaglia, cioè uccidono un tedesco e uccidono 56 uomini ma anche ragazzini, quindi come vedete anche qui il rapporto è 1-56, non si sa bene perché ne presero 60, poi si fermarono a 56. Allora questa signora mi racconta, questa signora ha avuto però un primo lutto, una prima morte, ed è un bombardamento alleato. Gli alleati bombardavano, diciamo, preparando l'avanzata. Quindi in agosto già, mentre lavorano nei campi, poveretti, una bomba cade. La signora non se lo sa spiegare, poi la gente cerca sempre delle spiegazioni. Lei dice c'erano i coloni, forse li hanno presi per un accampamento. In realtà sei sulla linea del fronte, quelli sganciano. Ecco. E muore la mamma e due sorelline. E lei, quando mi lo dice, quando io lo dico, lei dice io sono lì, perché lei era lì. Lei era lì col nonno e un altro. E si sono salvati, però ha visto... e ci racconta tutta questa scena terribile, anche lì la testa di una bambina che viene... Ecco, quindi c'è questo dolore vivo, no? che permane nel tempo. Poi, vabbè, queste poi sono appunto le storie della guerra, le violenze doppie, no? Chi è più cattivo, cioè, è difficile dirlo in quei casi, per esperienza personale, no? È chiaro. Nel settembre poi invece... nell'ottobre già, perché l'8 ottobre, fra settembre e l'ottobre, prima uccidono il padre, i tedeschi, mentre pascolava il gregge, e la cosa è probabile che i tedeschi volessero prendergli le pecore e lui non le abbia volute dare, e l'hanno ucciso. E successivamente nella strage, nella rappresaglia, li uccidono il fratellino. Quindi fra fine agosto e ottobre nella famiglia 5 vittime, 3 dei tedeschi e 2 degli alleati. Ecco, questa signora non dava giudizi, però è chiaro che, come dire, altri hanno detto è la guerra, no? Ovviamente questo è eccetera. Però come vedete anche qui sono storie contraddittorie, no? Sono storie conflittuali, Ecco, questo è chiaro. Poi lì si accavallano a molte altre tematiche, no? Io magari ti faccio l'ultima domanda, tra virgolette, poi lascerei le domande ai presenti. E la questione delle fonti orali, no? Che tu utilizzi molto nel tuo lavoro, come dici tu, spesso incrociandole con fonti di altro tipo, e molto spesso c'è stata a lungo una certa diffidenza, no? Nei confronti della storia ancora orale. Adesso c'è. E ancora adesso c'è, perché si dice la memoria appunto è labile, o falsificazioni più o meno consapevoli, eccetera, eccetera. E però, come da una parte, come hai detto tu, diciamo che la vividezza e il coinvolgimento e il trauma difficilmente sarebbero recepibili da fonti di altro tipo, sì. In primo luogo questo direi, e poi, e compare spesso nel tuo libro e anche in altri lavori di altri che si sono occupati di questo tema, e le false memorie, no, in realtà sono straordinariamente utili dal punto di vista storiografico, no? Certo. Cioè ci dicono come... E ci spiegano, cioè ecco, se giustamente indagate, no, queste false memorie sono degli indizi straordinari. Ad esempio, tu facevi tra i vari esempi quello di non so se una donna che o di più casi che attribuivano delle stragi in Campania all'SS, sì. E che non ci sono mai state, no. In Campania, no, proprio il corpo dell'SS non c'era. E erano evidentemente appartenenti alla Wehrmacht, però queste testimonianze arrivano in un momento in cui sostanzialmente c'è ancora questa immagine della Wehrmacht come sì. L'esercito regolare, comunque pulito, sono i mostri dell'SS che fanno le stragi, no? Sì, sì. Quindi si capisce come la memoria personale di fatto sia fortemente legata ed influenzata dalla memoria, diciamo così, sociale, no? Pubblica. Certo. Quindi, ecco, ci sono altri casi magari in cui tu queste false memorie le hai trovato come utili, più che un problema, una risorsa. No, certo, certo. Sì, sì, questo è ovviamente un caso che ancora oggi si sente, insomma, ecco. In realtà questi erano quelli dell'Hermann Göring, che fra l'altro avevano, delle... Se si vede ancora adesso i filmati di Göring, che sono... E avevano una diversa divisa. Una divisa di un colore un po' diverso, diciamo, e questi quindi chiamano SS. Però lì c'è ovviamente l'interpretazione della violenza di guerra, cioè non si accetta in qualche modo la cultura popolare, non si accetta che un esercito sia capace di una violenza così. Lo può fare solo uno particolarmente cattivo o uno che deve in qualche modo una milizia speciale, ecco, come il caso delle SS. Altri tipi di falsificazione della memoria ci sono, ad esempio, per la guerra, soprattutto al sud, fra i vari momenti. Perché ci sono passaggi veloci della guerra e si confondono. Ad esempio a Napoli alcune interviste che ho fatto mettono i tedeschi nel 44 quando c'è l'eruzione del Vesuvio. Ma guardi, nel 44 i tedeschi non c'erano più. Allora lì c'è la guerra di nuovo, no? È come se, l'eruzione del Vesuvio sia un'eruzione di violenza, anche quella, e l'eruzione dei tedeschi. E lì ci sono molti, non solo il Vesuvio, ma altri casi in cui appunto questa cronologia della guerra si confonde e lì appunto c'è ovviamente ci sono delle falsificazioni evidenti. Che sono appunto dovute anche appunto a questo aspetto, della guerra. E poi sì, la storia orale è chiaro, cioè nel caso del trauma non lo dico solo io, noi abbiamo dei ricordi vividi, proprio per il motivo che ho detto, cioè il trauma è quasi un flashback, una fotografia che uno ha stampato. Poi è chiaro che quello che ci interessa sono le falsificazioni e anche le interpretazioni. No. L'interpretazione ovviamente è un'interpretazione ed è soggettiva, ma ovviamente è chiaro che fa opinione. Ad esempio l'interpretazione se i tedeschi erano buoni, e non è vera, cioè non erano affatto buoni, i tedeschi non stupravano, non è vera, hanno stuprato anche loro, non in massa, ma c'è la documentazione scritta, cioè io ho trovato appunto non solo le testimonianze, molto di meno, ma noi abbiamo le denunce di allora, e quindi ecco, quella non è vera, è una falsificazione ed è un'interpretazione, no? L'interpretazione che è anche lì in fondo legata poi a quella stessa cosa delle SS. Molti dicono, questo anche a Napoli, appunto, in questa diversa opinione dei tedeschi, no? Ci sono quelli che dicono che i tedeschi erano dei signori. C'è addirittura uno, ecco, me lo ricordo questo, intervistato. Uno di un paese di Teano pure avuto sia stragi che bombardamento, perché anche Teano è sulla linea di fortificazione dei tedeschi. Allora questo signore sostiene, che è assolutamente impossibile, che i tedeschi prendevano le cose, facevano, firmavano, diciamo, dice io ti ho preso due mucche, ti firmo perché ti ho preso due mucche, che non è assolutamente vero. Ecco, allora questo qua si è costruito, no? Fra l'altro è uno che era sfollato, che poi è intervistato forse addirittura a Napoli, mentre molti altri ti raccontano tutt'altro dei tedeschi, perché l'hanno visto, lo sa, e a Napoli è uguale. A Napoli tu puoi trovare proprio queste due memorie diverse. Chi ha vissuto, io penso di averlo scritto proprio così, chi ha vissuto da vicino la violenza dei tedeschi ne parla fortissimamente, ne parla in maniera dura. Chi, come uno che chiaramente lì non c'è solo falsificazione, c'è politica, nel senso che è chiaramente un ex fascista, il quale dice, ma quando mai? Questo fu fatto da dei miei studenti. Gli studenti gli dicono, ma lei allora dove stava in quei giorni? Io l'ho chiuso in casa. Ecco, è chiaro, no? Quindi lì ci sono appunto questi diversi... E sono interpretazioni, le interpretazioni ci servono per capire com'è che si costruisce un'opinione, no? Certo. Ecco, un'opinione 25 aprile, ecco, 25 aprile perché in certi luoghi o certi no, è meno sentito. E com'è che si costruisce questa opinione che gira, no? E queste cose bisogna pure saperle, perché uno non le deve sapere. E nella storia orale, però, appunto, quello che dobbiamo fare attenzione noi storici orali. Non è che diciamo noi prendiamo o per oro colato, certo, le cose che ci dicono, ma le interpretiamo, le usiamo anche per interpretazione. Certo. Nello stesso tempo, come noi, questo appunto l'abbiamo detto tante volte, non solo io, Portelli, tanti altri, come noi usiamo ad esempio i diari degli personaggi importanti che ci raccontano le storie, certo, e ci crediamo, e se appunto nel caso ad esempio delle stragi naziste o dei bombardamenti, su alcune stragi noi abbiamo documentazione anche, no, che la fecero gli americani, gli inglesi, noi sappiamo anche dai nostri colleghi che e ce l'abbiamo anche sul sud. In alcuni casi no, non le abbiamo, ne abbiamo di meno. E allora noi andiamo nei paesi e questa signora ci dice, perché l'uccisione del fratellino 11-12 anni è stato ucciso nella rappresaglia, la sappiamo, sta nei documenti e nella targa che c'è del paese. Il padre no, ma se lei ci dice che i tedeschi le hanno ucciso il padre, gli vogliamo credere, sì. Fra l'altro poi siamo anche andati a vedere nel registro dei morti, c'è, però anche senza vedere il registro dei morti, se lei ce lo dice, le possiamo credere. Allora ci sono elementi di storia orale che ci danno, ci dicono qualche cosa, a cui crediamo, e poi ci sono tanti elementi di storia orale che invece sono interpretazione, rivissuto, poi nel caso ad esempio del terremoto è molto evidente, nei paesi distrutti ad esempio dell'Irpinia, che cosa succede? Un po' appunto lì ho fatto il paragone con la guerra, prima era tutto bellissimo, tutto eccezionale, dopo è tutto male, non è vero, no? Non è così, non è che le comunità di un tempo erano così belle, non conflittuali, armoniche, no, però nella memoria ovviamente c'è questa ricostruzione e noi la dobbiamo spiegare, certo. Ovviamente. Ma poi come dicevi tu, anche la fonte orale va, come dire, verificata, no? E come diceva, come scriveva forse Portelli, proprio diceva, perché mai, non so, un rapporto scritto di un prefetto dovrebbe essere una fonte, come dire, trasparente, senza contraddizioni, senza soggettività, senza anche secondi fini, no? Perché mai questo dovrebbe essere l'oggettività, mentre la testimonianza orale, per cui allo stesso modo con cui si analizza la fonte scritta, si analizzerà la fonte orale. Esatto. Allora, io adesso lascerei la parola a chi di voi voglia fare una domanda, qualche domanda. Scusatemi, ringrazio tantissimo, è stato molto bello, ma devo scappare. Io volevo dire una cosa, perché quest'ultima riflessione che ha fatto sui territori, come vengono modificati. Io sono originario della provincia di Salerno, quindi conosco bene queste vicende, perché dall'altro lato, non da parte dei nazisti, ma gli americani sono di Cala di Tirreno, in provincia di Salerno, di vicino, lo sbarco. Mio nonno commerciava il ferro, cioè il mio bisnonno commerciava il ferro e aveva dei figli, e a un certo punto gli americani, che dovevano proteggere i carri armati e le varie cose, arrivano al deposito del ferro che mio nonno commerciava, e entrano e dicono, e cominciano a costruire i capannoni per metterci i carri armati sotto, e poi vanno su un piano di un palazzo e occupano l'intero piano, cioè sfollano le persone, quindi ovviamente. E io, quando mi raccontavano questa cosa, mia mamma, ma più che mia mamma, mia nonna, perché poi mia nonna era già morta, ha una violenza pazzesca, praticamente tutto il ferro buttato via, intanto noi mettiamo lì, e diciamo, sì, però poi abbiamo chiesto se gentilmente facevano fare il militare a mio nonno, quindi alla fine avevano già occupato tutto e avevano trovato questa consolazione rispetto a quello da qui. Quindi effettivamente in quei momenti, ovviamente io dicevo, ma questa è una violenza spaventosa, e loro cercavano di giustificare il momento della, quindi mi ha ricordato, cioè, le storie sono tante. No, il Salernitano è stato distrutto, quindi bisogna dire, la violenza tedesca loro non l'hanno vissuta, loro hanno vissuto una Battipaglia rasa al suolo, Battipaglia non c'era più, Eboli pure una parte, ma un sacco di paesi, ma appunto Battipaglia proprio era rasa al suolo, perché sono sbarcati proprio lì davanti, quindi è chiaro che, insomma, quindi questo è, bisogna ricordarlo. Io proprio di quella zona, a un certo punto avevo già scritto il libro, e nel libro ho parlato troppo poco della zona del Salernitano. Mi ha telefonato, mi ha cercato un signore attraverso l'università, e il quale ha perso tutta la famiglia, cioè diciamo loro scappavano sulle colline vicino a Salerno, no? E arriva una bomba, probabilmente, lui non sa neanche se una bomba o una cannonata, stavano camminando, scappando, lui era il primo, dopo di lui c'era il papà, la mamma, due sorelline e un fratellino. Beh, lui si gira, erano morti tutti, no, un fuoco, insomma, e lui aveva 12 anni, non lo so. Questo signore mi ha cercato proprio, mi ha cercato attraverso l'università, e mi ha, perché voleva E infatti c'è nel sito che noi abbiamo costruito, nel sito sulla guerra, lui voleva che questa storia fosse ricordata. Era quasi, io ho detto quasi come se lui volesse riseppellire la sua famiglia, no? E, ecco, quindi questo è storia del Salernitano, cioè avviene durante lo sbarco. Loro scappano da giù, da Salerno, vanno sulle colline pensando che si sarebbero salvati, invece vengono presi diciamo in mezzo alle cannonate. Ecco, quindi vedete, queste sono tutte storie contraddittorie. Si conosce la figura di Mamma Lucia. Sì, l'ho citata, ah, l'ho citata nel libro Mamma Lucia. Lei è famosa proprio per raccogliere i corpi dei soldati tedeschi che non venivano, americani, che non avevano con le targhette. Sì. Scusate, grazie. Bene, se, ecco, c'è una domanda, grazie. Prego. Una domanda, ma non so se ha tanto senso, io le la faccio e poi... quando la memoria di un trauma entra nello spazio pubblico e diventa, come lei ha detto, una narrazione più che una memoria collettiva, è carica di emotività e lei ha detto appunto può diventare deviante perché si può creare un'ipersensibilizzazione, più come nel caso della memoria della Shoah, ma è possibile che la memoria del trauma entri nella narrazione pubblica senza, cioè, evitando questa sì. Cioè, c'è un modo di bilanciare secondo lei? Sì, secondo me c'è, ovviamente. Il problema è salvarsi dalla retorica. Purtroppo è difficile salvarsi dalla retorica. Ad esempio, nel caso dei bombardamenti, vabbè, la Shoah è un caso specifico, ne abbiamo già parlato, quindi... nel caso dei bombardamenti, i bombardamenti in Italia, comunque, se ci notate, non è che si ricordano molto. No. E spesso sono veramente quasi solo una memoria familiare, che è fortissima però. Cioè, proprio fortissima, a partire dalla storia di quello che mi ricordo della mia famiglia, che tutti ne parlavano. E lì, ad esempio, in alcune comunità, in alcune anche città, mi pare Pescara, il giorno del grande bombardamento, perché poi ogni città c'ha uno, due, cioè diciamo Napoli ce ne ha avuti tantissimi, la città più bombardata d'Italia, però ci sono alcune date fatidiche e le città in genere hanno una data fatidica, non so, Foggia, Pescara, Palermo, e mi pare nel caso di Pescara il giorno del bombardamento e l'ora del bombardamento suonano le campane della città, non lo so. Esempio, questo mi è sembrato ad esempio un modo non retorico di ricordare un trauma che poi ha vissuto la città in qualche modo, e che ricorda. Comunque sì, è molto difficile, però nello stesso tempo appunto sì, è difficile trovare questo nel caso ad esempio anche del terremoto. Noi abbiamo molti esempi adesso di ricordo e ricordo del trauma in cui diciamo c'è il tentativo di ricordare quelle giornate in maniera diciamo non retorica, ecco, forse più facile, perché c'è diciamo l'uso che in genere viene fatto rimane quello della testimonianza personale. Del personale. D'altronde tutti i grandi musei, diciamo, che ricordano questi traumi sono adesso costruiti tutti sulle memorie individuali, le fotografie, le memorie individuali. E lì sì, poi non abbiamo parlato. Grazie. Della questione dei terremoti, diciamo, sì, così, delle catastrofi naturali. Lì c'è di interessante anche, come dire, il dopo, no? Sì, sì. Cioè, ad esempio, il tema della ricostruzione avvenuta distante dal paese, uh-huh, distrutto, con modalità così, magari, sì, quasi voler creare un'opera d'arte modernissima, no? Il Gibellino. Esatto, il paese, uh-huh, esposizione di arte contemporanea quasi, e questa comunità che, come dire, si trova completamente spaesata rispetto ai non si riconosce, spazi. Non si riconosce per niente. Questo è un tema importante. In una, diciamo, uno di questi convegni venne a parlare una studiosa, antropologa svizzera, ma insomma che ha studiato soprattutto l'India, i terremoti in India, e lei ci raccontava che, appunto, ad esempio, ci ha raccontato il caso di un dopo lo tsunami, questo, uno di questi paesi, questi cittadini, questi paesi distrutti dallo tsunami, viene ricostruito con casa a schiera, che è proprio dove invece c'era una grande cultura della casa, che aveva una storia, aveva un legame con la sacralità anche. E vabbè, insomma, ci fa vedere, ci racconta questa vita nelle case a schiera, dove insomma era la vita era molto peggiorata rispetto a prima. E nelle comunità, diciamo, italiane, caso famoso è quello di Gibellina. Gibellina, dopo il terremoto del 1968 in Belice, praticamente viene ricostruita a molti chilometri di distanza, viene ricostruita con forme, diciamo, razionaliste, insomma, se uno va a Gibellina sembra di stare in un quadro di De Chirico, e dove la gente non si riconosce per niente, nonostante sia stata fatta da grandi architetti, da grandi. E poi l'altra cosa incredibile è che sulla Gibellina distrutta viene costruita questa grande opera d'arte, il Land Art di Burri, che si chiama Il Cretto, e che è una specie di, lui pensava come un sudario che viene costruito sulle rovine, che è un'idea di Land Art magari eccezionale, anzi per noi è bellissimo, ma la gente questo non l'ha proprio riconosciuto, non l'ha riconosciuto perché è stato come di nuovo un voler distruggere ancora di più la memoria e l'identificazione col luogo. Questo è. E poi vabbè, nelle ricostruzioni, cioè, poi ci sono i conflitti enormi, su, appunto lì si potrebbero scrivere volumi, e oltre ai conflitti ovviamente sulle risorse eccetera, c'è come ricostruire. E anche lì, ad esempio, in Irpinia ci sono molti. L'Irpinia è un caso molto interessante perché l'Irpinia è il Salernitano, perché si ricorda sempre di Irpinia, ma la zona del cratere è molto vasta. E essendo molto vasta, ogni paese ha fatto una scelta diversa. Allora, ci sono paesi come Sant'Angelo di Lombardia che hanno cercato di ricostruire dov'era, com'era, no? E quindi hanno cercato di salvare il salvabile, ricostruire, diciamo, il paese, la cittadina. E ci sono altri paesi invece che hanno scelto di ricostruire ex novo, quindi a valle. E lì le scelte sono state diverse, ad esempio nel paese di Conza, dove appunto sul Cocuzzo ci sono ancora le rovine e a valle c'è il nuovo paese. In fondo la decisione è stata presa da tutti, ci hanno votato, dopodiché hanno fatto un paese di villette unifamiliari con spazi, io li ho fotografati, diciamo, in cui la gente non si ritrova, e però l'avevano scelto loro, quindi però nonostante quello, anche se l'avevano scelto, dicono, insomma, non si ritrovano, c'è uno spaesamento in qualche modo. Poi ci sono altri casi in cui, come dire, appunto la gente non si ritrova, ma lì c'è stato un conflitto a Laviano, e se uno va a Laviano, insomma, sembra di stare in una periferia, ecco, ci sono dei casoni di cemento orribili, e una parte della popolazione non l'ha mai accettato questo, e lì c'è un conflitto, ad esempio. E lo spaesamento perdura in moltissimi, se li si intervista. Lì c'è appunto questo tema importante, ovviamente, dello spaesamento e del luogo, insomma. L'identità del luogo e il fatto che non ci si ritrovi. Soltanto una domanda. Ha parlato anche nel libro dell'uso politico della memoria, nel senso che la memoria chiaramente può essere costruita da una parte in un senso o nell'altro, può essere tramandata, può essere cancellata. Certo. Ad esempio in America parlava prima dei genocidi, il genocidio non riconosciuto degli indiani d'America certo. è basato su che cosa? Sulla cancellazione della memoria degli indiani, certo, per esempio. Certo. No, certamente ne parlo. Gli esempi che ho fatto, diciamo, sia appunto del sud, delle stragi naziste, delle quattro giornate, ma poi anche la memoria nazionale, no? C'è una costruzione nazionale, ad esempio italiana, che ancora scontiamo, è la costruzione che la benemerita l'esistenza ha significato guerra di popolo e quindi che gli italiani non erano mai stati fascisti, e diciamo in qualche modo cancellato anche alla collaborazione, no, che gli italiani hanno dato con i nazisti, e noi infatti abbiamo in Italia un partito che si rifà in qualche modo la fiamma, e poi la colonizzazione, noi abbiamo cancellato completamente i crimini che noi abbiamo compiuto nelle colonie, questo è lo scontro, cioè ancora adesso c'è questa questione. L'altro giorno è uscito sui giornali che c'era un gruppo che mangiava a Milano in un ristorante contornati da immagini di Mussolini, eccetera. Ma voi pensate se in Germania uscisse fuori che un gruppo di deputati, di parlamentari tedeschi sta a mangiare in un posto contornato da immagini di Hitler? Ma quelli sarebbero denunciati duramente, non sarebbe proprio possibile. In Italia questo è possibile. È possibile perché, diciamo, non c'è stata una costruzione di memoria. La Germania è stata resiliente sotto questo punto di vista, l'Italia no, non è riuscita a fare questo passo. Giustissimo. Diciamo che avviene anche quello, come diceva il professor Di Michele prima, avviene uno scongelamento che da noi è avvenuto troppo tardi per riuscire a costruire una memoria. Perché se pensiamo alla Germania dell'immediato dopoguerra, sarebbe stato possibile trovare delle persone a tavola con le bottiglie naziste intorno. Sì. Ed è stato possibile a lungo, e anche tutta la questione dei criminali di guerra che poi vengono liberati, possono tornare in Germania. Diciamo che anche noi adesso ci facciamo una memoria pubblica di quello che avviene o che è avvenuto in Germania, che cancella tutto. Sì, sì. Un lungo periodo di... Sì, sì. Non si può più parlare di collaborazionismo, però di certo di certo. Una generazione della Wehrmacht che aveva ancora il potere. Certo, certo. Lì c'è stato l'historic right, non lo so, io se lo pronuncio male, ma c'è stato, diciamo, questa generazione anche di storici importanti, i figli, diciamo, dei nazisti, che poi hanno cominciato negli anni, fine anni 60, diciamo, a criticare i loro padri, e lì è stata poi una svolta importante, che qui c'è stata di meno, quindi siamo arrivata dopo, pensiamo appunto a tutti questi lì c'è stato un discorso. Sì. Perché anche adesso se pensiamo a com'è la situazione politica, c'è avanzata della destra. Sì, fra l'altro appunto ci sono questi elementi che si continuano, di cui non si può quasi parlare, no? Non si può quasi parlare. C'è questo legame, ad esempio, no? Con la Repubblica di Salò, no? Con questi memorie della Repubblica di Salò. Pensiamo al Mirante, era della Repubblica di Salò, no? È stato il capo di un partito in Italia. Sì. Io avrei una domanda forse un po' più metodologica, insomma, che di contenuto, cioè, e dal momento che lei fa un'intervista a un testimone e sente magari dire qualcosa che lei sa, come diceva prima, dei tedeschi nel 44 Napoli, che non è vera, come si rapporta poi con il testimone nel momento in cui lo dice o alla fine dell'intervista? Cioè, ne parla col testimone di quello che è la realtà dei fatti oppure lo scrive magari nell'opera rischiando magari di creare una situazione dove il testimone legge l'opera e si sente dire che, cioè, è convinto che una cosa sia vera, ma non è mai successa, cioè come si pone? Beh, è una domanda giusta. Diciamo, l'intervista è dialogica, quindi uno può, ad esempio, nel caso del Vesuvio e dei tedeschi 44, penso che io ho detto, ma signore, i tedeschi nel 44, cioè si può, cioè è dialogica, quindi è giusto non fare, non avere un atteggiamento paternalistico, dire vabbè, insomma, quindi si discute, poi dopo quando uno fa la trascrizione vede quello che è stato detto, quindi questo mi è giusto. Credo che anche nel caso delle SS io l'avessi detto, che non c'erano le SS, ma questo è... Ma questo perché c'è un bisogno di, dal punto di vista proprio psicanalitico, psicologico, sto cercando di capire, c'è un bisogno di protagonismo oppure sono fatti riportati di terza mano e allora non più attendibili oppure... ci credono realmente, vorrei capire. No, questo delle SS la gente ci crede, cioè ci crede, ma guardi che anche degli quasi studiosi hanno scritto che c'erano le SS. Ad esempio, io ho avuto una discussione con delle persone perché nel mio libro Guerra Totale l'ho anche trattato il caso piuttosto a lungo, un caso di internati ebrei in un paese vicino a Napoli, no? Come questo sistema dell'internamento, diciamo, 43, non c'è moltissimo, poi avevano portato pure le famiglie, e questi finiscono anche loro sulle linee del fronte praticamente, e lì c'è, diciamo nel napoletano come anche in tutto il salernitano, cioè, ci sono i rastrellamenti degli uomini per il lavoro coatto, no? Sono circa 20.000 gli uomini rastrellati per il lavoro coatto fra Napoli e la zona del Casertano, fra il 23 settembre e il 27, le quattro giornate scoppiano per quello, fra l'altro, fra le altre cose. E allora, in quel caso, diciamo, c'è il rastrellamento degli uomini, insomma, gli ebrei si salvano, cioè non vengono presi, poi arrivano gli alleati, quindi. Allora, un'interpretazione è che quelli del paese sono stati così bravi da non fare la delazione alle SS o ai quelli, insomma. Ecco, allora sicuramente quelli del paese un merito grandissimo comunque di sono stati zitti, non hanno e comunque hanno avuto un grosso rapporto con questi ebrei che stavano lì, che cioè, questo va oltre poi alle leggi razziali, nel senso che è gente che alle leggi razziali non ha creduto, però le SS non c'erano, non c'erano né le SS né quell'altro gruppo di cui adesso non mi viene in mente il nome, ma insomma che era addetto ai rastrellamenti degli ebrei, non c'erano. C'era la Wehrmacht e c'era l'Armangoni, che pure sono cattivi perché hanno fatto tanti stragi, ma non, in quel momento non erano interessati agli ebrei, in quel momento li stavano combattendo per difendere la linea del Volturno, poi la linea Gustav, eccetera. Però nelle spiegazioni di gente colta, di nuovo compaiono queste idee, ma questo si è sentita forse anche in qualche trasmissione televisiva, questo fatto che c'erano le SS, no? Poi a Roma invece, ecco, c'erano, ad esempio, no? Ecco. Ma questo per dire, non è protagonismo, è un'interpretazione. Nel caso delle SS, secondo me, l'interpretazione è proprio non poter accettare che che dei soldati semplici siano disumani, ecco, facciano delle cose, dei crimini, ecco, questo è. In Campania li hanno fatti, in Campania in particolare l'Hermann Göring, ma anche altre truppe, insomma la Wehrmacht sempre. Bene, io vi ringrazio per la presenza e grazie a professoressa Grigaldi.